Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, Sudafrica -1, temperature in aumento dal punto di vista emotivo, non so se anche da quello meteorologico. Lo chiedo subito dunque allo studio centrale di Sky Sport 24 a Johannesburg, a Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Buongiorno Gigi, temperatura in calo qui, temperatura in calo perché questa mattina siamo arrivati, tenendo conto che siamo a 1600 metri di altitudine, sembrava di stare a Bormio, perché le nuvole erano basse, perché non si vedeva la skyline di Johannesburg, perché abbiamo visto le prime nubi, siamo qui ormai da qualche giorno ed era sempre stato sole, però c'era un forte vento e questo ci dava speranza, e infatti la speranza è stata ripagata perché a metà mattina il cielo si è magicamente aperto, fa abbastanza freddo, io indosso un maglione sopra la polo, ho fatto tutti i collegamenti di questa mattina dallo studio con un giubbino, non pesantissimo ma comunque utile e opportuno, e tra l'altro vedendo anche i collegamenti da Centurion, da Casa Azzurri, ma anche da Cape Town questa mattina c'era il sole ed è la perturbazione di Cape Town che è risalita verso Johannesburg, ma a Centurion stamattina De Grandis aveva un giubbino abbastanza pesante. Lo sapevamo, la cosa non ci stupisce, siamo in inverno e quindi è normale. Certo, è il primo mondiale invernale dal 78, lo ripeto ancora una volta, quindi è un mondiale, nel 78 vinse l'Argentina, ma insomma anche per una serie di altre ragioni, ma andarono molto bene le squadre europee, a cominciare da Olanda che andò in finale, e Italia in quella fase finale. Credo che il parametro di un mondiale invernale dal punto di vista climatico vada tenuto presente nelle valutazioni complessive. Dicevo che sale la temperatura, ma sale la temperatura, mi pare, del nervosismo, dello scatto di nervi, no? un po' su tutti i fronti, su tanti fronti, leggo dalle agenzie. Sì, devo dire che questo è il filo conduttore da parte di tutti. Ti racconto l'ultima che è successa perché è accaduta una mezz'oretta fa, me l'ha appena raccontata Alessia Tarquinio, che è tornata dalla conferenza stampa della Serbia, e lei ha fatto una domanda a Krasic, ma come è giusto che sia, perché Krasic è un obiettivo di mercato della Juventus, e ha una domanda abbastanza semplice: pensi alla Juventus? È saltato fuori l'inferno, perché insomma l'addetto stampa, il responsabile, ha subito preso il microfono e ha detto davanti a tutti: in queste sedi, in queste conferenze non parliamo di club, qui stiamo parlando del mondiale, bla bla bla bla bla bla, e quindi praticamente la domanda non ha avuto una risposta. Ma questo accade più o meno in tutti i ritiri: da un lato c'è la curiosità, la necessità da parte della stampa anche di occuparsi del mercato, perché comunque sui giornali e le televisioni il mercato vende sempre, ma poi ci sono casi anche peggiori, insomma, di Capello ne abbiamo parlato ieri, ma le immagini poi viste su tutte le televisioni sono molto eloquenti. Oggi Dunga ha vietato le riprese televisive alla presenza dei giornali e dei giornalisti all'allenamento, ed è una cosa che la Seleção non fa praticamente mai. Probabilmente un po' piccato per il fatto che qualcuno ha scritto di una certa indolenza di Felipe Melo durante l'allenamento. Oppure possiamo parlare anche di un Marcello Lippi che ieri ha tenuto una conferenza stampa molto puntuta, molto orgogliosa, molto a petto in fuori, quasi come dire, cioè un po' alla Mourinho per certi sì, versi. Ne sentiremo anche dei... Se vuoi parliamo anche di quello che sta succedendo nel ritiro della Francia, perché lì siamo al limite dell'ammutinamento. Certo, ne parliamo e come. Della delegittimazione di Domenech. Sì, ne parliamo e come. Volevo soltanto far osservare che più tardi ascolteremo dei frammenti di questa intervista di Lippi, che altro non è se non la riprova, quella di Lippi, ma anche come altri, che la temperatura appunto sta salendo. D'altra parte siamo a -1 se parliamo di Sudafrica, Messico e Francia, Uruguay, quindi la Francia sia già in ebollizione regolare perché siamo in vigilia di partita, e da un punto di vista ambientale insomma siamo all'ammutinamento, dicevi. No, all'ammutinamento non ancora, ma quasi. Perché la questione Gallas comunque non si è risolta. I colleghi francesi ci dicono che Domenech sia stato completamente delegittimato, che il gruppo storico dei giocatori della Francia voglia in campo Thierry Henry e non Henry in panchina. Ribéry e Daniel Kahn non se le mandano più a dire, ma spesso in allenamento sono scintille. E quindi insomma mi sembra una situazione esplosiva, resa tale, a parer mio, da questa pervicacia forse assurda, poi i risultati vedremo a chi daranno ragione, a parte della federazione, di continuare a presentare Raimondo Menech come commissario tecnico contro certo. tutto e contro tutti, avendo già annunciato il suo successore che sarà Laurent Blanc. Poi per carità, nel calcio ci sta sempre tutto e situazioni anche peggiori hanno portato squadre addirittura a vincere il mondiale, però insomma, diciamo che la Francia, che ha un girone molto equilibrato dove non ci sono eccellenze ma non ci sono nemmeno squadre materasso, perché comunque Uruguay, Sudafrica e Messico non è un girone facile a parer mio per la Francia. Insomma, se le premesse sono queste, poi magari se i giocatori giocano contro l'allenatore può anche essere che vincano, perché se giocano contro l'allenatore poi giocano anche a favore loro e quindi magari diventa anche un bene in campo e non sarebbe la prima volta nella storia del calcio. Però diciamo che è una situazione sinceramente abbastanza complessa e non facile da gestire. Sì, è inspiegabile alla luce del fatto che comunque i rapporti già 2 anni fa gli europei non erano particolarmente diversi da questi, no? No, erano completamente deteriorati probabilmente loro avrebbero dovuto ringraziare e salutare Domenech dopo Germania 2006, perché lì il ciclo si era chiuso anche da un punto di vista anagrafico. Domenech ha continuato con la sua politica, intendiamoci, lui è arrivato a una finale di un campionato del mondo e quindi in questo caso va rispettato massimamente, però diciamo che non ha creato le condizioni per un quieto vivere e per un tranquillo vivere. Certamente no. Arriviamo tra poco a disavventure che riguardano anche la categoria, direi, e che non è soltanto il fatto che questa collega di Sky sia stata, come dire, redarguita per aver posto la domanda di mercato in piena conferenza stampa mondiale, cosa che io personalmente non trovo poi nemmeno così gratuita, detto tra noi, ma questi sono punti di vista. No, arriviamo invece a disavventure reali che rigettano un minimo di ombra, no? Sull'aspetto ambientale di questo mondiale e soprattutto su quello della sicurezza. Torniamo in collegamento con Fabio Tavelli. Mi pare che anche la categoria, insomma la nostra categoria, sia discretamente nel mirino. È toccato a dei giornalisti cinesi, mi pare, stamattina o ieri forse. Sì, stamattina è toccato a dei giornalisti cinesi, o quantomeno la notizia è arrivata stamattina, sì. Ma ieri era accaduto a un collega portoghese e a uno spagnolo di essere proprio svegliati nel cuore della notte con armi spianate ed essere rapinati di tutti gli strumenti di lavoro, cioè telefoni, forse c'era anche una telecamera e computer portatili, sì, oltre sì. che naturalmente i contanti, anche denaro e quant'altro. Insomma, poi per carità, si tratterà sicuramente di delinquenza comune che non avrà nulla a che vedere con il mondiale. Ci diranno poi magari se questi colleghi sono stati incauti o stavano in posti considerati a rischio. Devo dire che è una notizia che ovviamente ci tocca particolarmente, ma non perché fossero giornalisti, ma semplicemente perché quando ti puntano un'arma addosso la certo. solidarietà deve essere a prescindere dalla categoria. Devo dire, anche per tranquillizzare casa, che noi stiamo in un posto abbastanza tranquillo, anche se come dire appetibile, perché è una zona collinare molto così residenziale, semilussuosa. Qui credo di averlo già detto, la zona dove stiamo noi è tutta cintata, cioè sono appartamenti, sono casette molto belle, ma con dei muri alti 2 metri e con del filo spinato elettrificato, quindi come a voler scoraggiare eventuali intrusioni. La cosa a me sinceramente inquieta parecchio, perché insomma se significa vivere comunque in uno stato di chiusura, di impossibilità sì. di muoversi liberamente, per carità, ma accettiamo tutto perché comunque vogliamo evitare di diventare bersagli, no. E quindi cerchiamo di comportarci tutti nella maniera più sensata possibile. Ma non c'è dubbio, e anche qua comunque, Fabio, niente di nuovo sotto il sole. No, vero, vero, verissimo. Nella però ti assicuro, Gigi, che vedere questi muri alti intorno a case anche belle, qualcuno potrebbe pensare che il paesaggio viene deturpato, ed è vero, perché sono orribili da vedere, però evidentemente il piano edilizio ha previsto questo. No, questo sì, non c'è dubbio, questo appunto insomma, i rischi sicurezza sono sempre superiori e questi crescono purtroppo a ogni edizione. Io parlavo del furto, anche della piccola rapina, ci sono sempre stati nel corso dei mondiali delle bande che sono bande in genere sudamericane, in genere, o perlomeno tradizionalmente erano di questo genere, che si spostano e seguono i grandi eventi. Seguono le Olimpiadi, seguono i mondiali. In Spagna nell'82 fecero strage nella fase dei gironi di eliminazione, per esempio proprio a Siviglia, dove stavo, insomma, non è molto nuovo. È nuovo il pallone, e allora io oggi chiuderei con questo, un argomento già toccato, per carità, ma insomma la curiosità, per esempio, voi questo pallone l'avete visto, avete provato a calciarlo? Sì, tra l'altro noi questa sera lo faremo calciare in studio dai nostri opinionisti, quindi Luca Vialli, da Luca Vialli in giù. Per cui credo, ma soprattutto è Marchegiani il nostro punto di riferimento. Lo credo. Luca ha qualche sospetto su Giabulani, però davvero questa sera in studio lo proveranno, lo testeranno e credo che daranno anche qualche indicazione. Ci sono due fattori, c'è la composizione di questo Giabulani che a molti ricorda i vecchi palloni, l'Elite, il Super Tele, quelli che si usavano in spiaggia negli sì. anni 80, oppure c'è anche il problema dell'altitudine, perché comunque è un problema o comunque una situazione da tenere in considerazione. Quello che dico io in questi giorni è vediamolo, tanto non si può tornare indietro, no, Giabulani certo. Ce lo teniamo e dobbiamo vederlo, non è pensabile che l'Adidas e la FIFA un giorno dal Mondiale cambino il pallone. E quindi penso già che da domani avremo qualche indicazione. Sì, è stato interessante leggere stamattina su Nova, che è il supplemento di ricerca, innovazione e creatività del Sole 24 Ore, una doppia pagina dedicata a questo pallone e a un po' di storia anche, non solo a all'intervento di un fisico che si chiama Nicola Ludwig, un ricercatore di fisica dell'Università di Milano, che insomma, racconta e descrive le caratteristiche di questo pallone, ma un po' a una cronistoria, perché insomma il primo pallone moderno risale a Messico 70, quando Adidas per l'appunto divenne fornitore ufficiale della FIFA, e nel 70 si chiamava Telstar. Poi arriviamo al 78 e al tango. Il tango nel 78 fu fatale, no? Se vogliamo restare in quel clima. Chiedere a Zoff. Esatto, a Dino Zoff, che poi ti dirò, io ho rivisto quei 4 gol, 2 olandesi e 2 brasiliani ancora di recente, era parabile il primo di Han, ma sugli altri 3 voglio vedere a prenderli, ma insomma. Brandt, Nelinho e Dirceu. Bravissimo, ecco, gli ultimi 3 secondo me non c'erano margini di intervento. Poi nel 98 in Francia ci fu il primo pallone colorato, perché si abbandonò per la prima volta il bianco e nero, e poi si arriva al Team Geist, no? Mi pare si chiamasse. Sì, una roba così. Quello del 2006 in Germania. Ma questa evoluzione è sempre nel segno di una maggior, non tanto leggerezza in assoluto, perché poi il peso il pallone ha un peso minimo e un peso massimo, e dentro quella forbice devi stare per regolamento. Sì, perché sono regole dell'International Board, quindi da quel punto di vista non puoi uscire. Ma una elasticità e una soprattutto una imprevedibilità strutturale che poi si traduce in imprevedibilità di traiettoria sempre crescente, no? E quindi sì, sempre. Poi tra l'altro mettiamoci anche un certo tipo di studio che viene fatto, ad esempio i brasiliani, tu ricorderai le punizioni di Claudio Branco, da lì in poi certo. Studiarono la possibilità di tirare o con una particolare inclinazione del piede per farlo colpire solo con le ultime 3 dita, oppure di cercare di colpire la valvola, vale tutto. Tanto anche se gli scienziati più bravi, più rinomati ci diranno giustamente le loro cose, poi quello che succede in campo ha un che di imponderabile, perché basta un refolo di vento, basta un flash di un fotografo, basta una disattenzione di un portiere, immagino già che qualche portiere magari disattento o distratto darà subito la colpa a Giabulani. Ripeto, non lo so, tanto manca 24 ore, ma certo. perché sì, 25, 26 forse. Vediamocelo sto mondiale e poi vediamo. Certo, e facciamo nostro l'appello del governo sudafricano, che le agenzie hanno appena battuto, affinché domani durante gli inni nazionali, durante la cerimonia inaugurale, soprattutto durante gli inni nazionali Sudafrica-Messico, tacciano le vuvuzelas. Ecco, guarda, sarebbe già un punto di inizio importante. Io riflettevo stamattina su questa cosa, poi Gigi ti lascio. Certo. Le vuvuzela sono anche un'arma contundente, perché sono lunghe quasi un metro. Io sinceramente credo che in Italia una vuvuzela non te la fanno portare dentro lo stadio, e come possono controllare tutte le vuvuzela? Secondo me è impossibile, a parte che qua i controlli mi sembrano abbastanza blandi, ma molto blandi. Insomma, speriamo. Speriamo bene. A domani, speriamo Fabio. Bene. Ciao Gigi, domani. Saluti. Grazie. Collegamento chiuso con lo studio centrale, ripeto, di Sky Sport 24 a Johannesburg. Due notizie di casa nostra. La prima, l'Inter ha annunciato che Rafa Benitez è ufficialmente il nuovo allenatore della società, ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2012, quindi biennale. La presentazione ufficiale del nuovo tecnico ex del Liverpool avverrà martedì. Questa era la prima. La seconda non piacerà ai tifosi del Torino, perché è stato squalificato per un turno Rolando Bianchi per bestemmie. Prova bestemmia da prova televisiva dopo la partita di ieri sera con il Brescia. Bianchi ha commesso l'errore di aver preso una gomitata da un avversario, ovviamente non sanzionato adeguatamente, e ha commesso l'errore a bordo campo, mentre veniva medicato, di lasciarsi andare, indubbiamente come non si dovrebbe, tanto meno si dovrebbe in questo paese in cui, ripeto, guai a farsi scappare qualcosa di questo genere. E se poi invece gli ultras si fanno scappare qualcos'altro, il presidente del CONI, come noto, ne viene turbato un pochino meno. In ogni caso, Brescia e Torino, che ieri sera hanno pareggiato 0-0 a Torino la partita d'andata, che giocheranno il ritorno, la rivincita a Brescia domenica sera, dovranno fare a meno rispettivamente di Budel e Mareco, appena squalificati dal giudice sportivo il Brescia, e da Rolando Bianchi per bestemmia il Torino. Giuseppe in linea da Ancona, buongiorno. Buongiorno signor Granzini, grazie di quello che fa ogni giorno. Ma volevo dire due cose, la prima delle quali fa il segno di Facedola sulla insofferenza per i giornalisti nei ritiri. Secondo me stanno applicando le norme che il Senato ha varato stamani in Italia, quindi lei dice che si portano avanti. Che si portano avanti. Esportiamo civiltà, insomma. Sì, esportiamo civiltà. Se questo qui eravamo la fase del diritto, non so se continueremo a esserlo ancora, almeno per la parte, diciamo, che viene dai romani. Eravamo ai tempi di Giustiniano e prima, assolutamente. Poi è passato tempo. È passato tanto tempo. La seconda, se posso dire, sulla violenza, insomma, sulle rapine, su questi furti. Beh, Sudafrica è un paese in cui c'è fasce enormi di popolazione, in cui un terzo delle persone sieropositive non ha possibilità di curarsi, per cui il numero di disperati capaci di fare qualsiasi cosa per una telecamera o per qualcos'altro penso sia assolutamente numeroso. Sono stato l'anno scorso per lavoro una decina di giorni nella zona di Cape Town, perfino le chiese sono recintate, elettrificate, e c'è il cartello che se oltrepassi ci sarà una risposta armata. Quindi lo so, Giuseppe, non è un rapporto in cui andare a sfoggiare Rolex o macchinoni Ho l'impressione anch'io. Sto leggendo con grande interesse in questi giorni, anche se sono troppi onestamente, i reportage che arrivano dalla Sudafrica un po' su tutti i quotidiani, e sono utili proprio per farsi un'idea di com'è quel mondo, che è un mondo profondamente diverso dal nostro, purtroppo con alcuni punti di contiguità di cui farebbero loro e faremmo anche noi molto volentieri a meno. Mi fa piacere segnalare, anche se insomma la tempestività della collocazione di data con il mondiale appena iniziato non è stato il massimo, forse il primo torneo giovanile Nils Lidholm è la prima manifestazione intitolata a questo grande gentiluomo del calcio svedese e italiano, che ha illustrato prima sul campo e poi in panchina tutta la sua classe e tutta la sua eleganza. Succede sabato e domenica 12 e 13 giugno, quindi questo fine settimana, succede nelle terre che Lidholm aveva scelto come sua patria adottiva, il suo paese, che è Cuccaro, sulle colline del Monferrato. Queste partite si giocheranno tra Spinetta Marengo, San Salvatore e poi domenica le finali al vecchio campo Moccagatta di Alessandria, nel quadro di una simpatica, forse anche più iniziativa, che è stata varata, che è quella, è stata chiamata Sulle tracce di Lidholm, ed è un gemellaggio da Valdemarsvik, molto difficile da pronunciare, il paese natale di Lidholm, a Cuccaro. Ci sono 2.065 chilometri di distanza. Ed è un percorso che questi cittadini svedesi della cittadina, appunto, che tiene i natali a Lidholm, hanno già compiuto lo scorso anno e stanno compiendo in questi giorni per questo torneo. Poi seguirà in autunno la prima edizione di un premio educazione dedicato alla memoria di Nils Lidholm. Paolo ha chiamato dalla provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, buongiorno. Solo una constatazione veloce e una domanda altrettanto veloce. La prima, penso che Lippi sotto certi aspetti abbia fatto bene a intervenire in questo senso durante la conferenza stampa, perché secondo me si sta ricreando un po' il clima di 4 anni fa, quando in piena Calciopoli pareva che nessuno guardasse la nazionale e poi man mano che si andava avanti le piazze si riempivano sempre di più. Secondo me bisognerebbe prendere un po' esempio da altre nazioni, che quando gioca la nazionale i tifosi si muovono in massa e magari con un contorno folcloristico anche interessante, ad esempio tutti con la maglia della nazionale, sì, ricordo il muro arancio europeo in Olanda, o le maglie bianche dei tifosi inglesi o quelle azzurre dei tifosi francesi. Solo noi forse non facciamo sentire come popolo, come nazione, no, questa vicinanza alla nazionale. Io questo non direi proprio, secondo me ce n'è persino troppo di calore, ma questo è un altro, è un altro discorso, cioè ci sono già pronti in tutte le piazze, sono già sempre pronti il giorno prima, e le trombette e le cose, sì, no, ma non è un rito, dai, che poi ci sia qualche politico che cerca notorietà prima, sì, sperando di aver azzeccato l'anno in cui van fuori subito, beh, insomma, questo, anche questo fa parte di un copione collaudato da tempo, poi vedrà che saranno i primi a fare marcia indietro se invece le cose andranno diversamente da come pensavano. Non ho ancora sentito, forse mi sbaglio, parlare magari di formazione, possibili formazioni, diciamo, dell'Italia o cose del genere. È ancora troppo presto, forse perché per la prima volta mancano determinati dualismi che si venivano a creare magari negli anni passati, vedi Totti del Piero, cose di questo genere. Secondo me mancano giocatori. No, ma questa era battuta, quindi sì, è ben chiaro che era battuta. E no, è che Lippi per la prima volta mi pare non sapere bene nemmeno lui, insomma, lui stesso che pesci pigliare, e mi sembra ancora preda di due o tre incertezze che poi in un paio di reparti si spiegano, perché gli sono venuti a mancare Pirlo e Camoranesi, che erano due giocatori su cui lui faceva, soprattutto sul primo, grande affidamento, ma anche sul secondo, grande affidamento, e quindi lì sta evidentemente facendo le riflessioni, e queste probabilmente si ripercuotono anche sul settore arretrato, perché non avere giocatori creativi nella parte decisiva del campo, perlomeno nella metà campo avversaria, comporta una scelta magari di difensori che possono essere un po' più utili in quella zona, lo vediamo nel giro di poco, comunque, io credo. Alberto ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Prima di tutto una domanda, che so che lei è un estimatore. Enzo Berzot, lei lo sente? Come sta? Beh, Alberto, ci sono anche delle leggi sulla privacy, abbastanza bene, grazie, ma senza esagerare. Poi? Bene, perché io sono un grande estimatore di allenatori che sanno creare questo gruppo, e mi auguro che Lippi, che l'ho già dimostrato una volta, possa farlo di nuovo con la nazionale di quest'anno. Ho qualche dubbio su cui volevo confrontarmi con lei, perché io credo che alla fine il discorso di portare un gruppo come quello della Juve piuttosto che quello della Roma o del Milan è molto, sempre molto attaccato, in realtà diventa un valore, sempre lo ha dimostrato la storia della nazionale. Effettivamente quest'anno diventa difficile investire su un gruppo, ma io credo che lui non avesse alternative. Poi possono lasciare perplessi, io sono un estimatore di Marcello Lippi, ha ogni tanto degli eccessi come tutti gli allenatori che hanno anche un certo carisma, ha le sue idee. Posso discutere la decisione di non portare un Ballotelli, perché comunque un talento puro, pur non essendo simpatizzante dell'uomo, un talento puro con la tecnica di Mario Ballotelli poteva in certi momenti essere utile, poteva essere gestito proprio da un allenatore che ha il carisma di Lippi, poteva anche essere gestito magari un ragazzo con le intemperanze caratteriali di Ballotelli. Posso avere dei dubbi anche sul fatto che abbia lasciato a casa Borriello e ci manchi in questo momento magari... Vabbè, dubbi ne abbiamo tanti, Alberto, io sto notando che i suoi dubbi sono abbastanza numerosi e il tempo passa, sono i dubbi che abbiamo un pochino tutti. Poi il convento passa questo, io credo, in estrema sintesi. Il convento del calcio italiano oggi questo passa. Il convento del calcio italiano un anno e qualcosa fa, quando Lippi impostò la nuova nazionale, impostando la nuova Juventus che è fallita quest'anno proprio per quella impostazione, beh, credo che ad allora risalgono alcuni peccati che si rischia di scontare adesso, e che in ogni caso Lippi ha già scontato con l'esonero dalla nazionale, no? Perché se poi vogliamo chiamare le cose con il loro nome, già sappiamo che comunque si concluda questa avventura, non sarà più lui CT della nazionale, cosa che in un primo tempo sembrava una libera scelta, quando sembrava appunto che il suo restyling di Juventus sarebbe stato positivo, una volta risultato negativo, Lippi sarebbe anche rimasto a guidare la nazionale. Non risulta che sia andata così, o soprattutto non risulta che andrà così in prospettiva. Sentiamolo Lippi proprio su quel passaggio che è stato evocato già più volte dell'atmosfera 2006. Sono molto più carica adesso, sono molto più pimpante adesso di 4 anni fa. 4 anni fa era una cosa nuova, diversa, al di là del momento che passava l'Italia calcistica, al di là di quello. Ma adesso mi sento, non lo so, mi sento più carico, e la carica me la danno anche le persone con le quali lavoro, perché vedo quella che c'hanno loro. La prima parte di un intervento di Lippi che poi sentiamo, visto che prima quell'ascoltatore milanese diceva che non sente parlare di modulo di formazione, sentiamo se qua ci dice qualcosa in più. Le idee chiare ce l'ho, ma ce l'ho talmente chiare le idee che però non l'ho, che ho ancora potute trasformare in campo, perché ci sono stati dei problemi, dei giocatori che si sono infortunati e perciò non l'ho potuto fare. Però fortunatamente da parte Pirlo ce li ho tutti a disposizione e posso trasformare quelle che avevo in testa da tanto tempo. L'idea mia è quella di fare una difesa un po' più compatta, che possa permettere di avere anche 2 o 3 giocatori davanti, che, perché non basta solo difendersi, bisogna anche andare a fare qualcosa davanti. Giovanni ha chiamato dalla provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Una mia idea personale, non è che punendo queste bestemmie in campo ci si nasconda un po' dietro il dito, cioè non ci sono cose più importanti da sanzionare che la bestemmia. Secondo me punisce già in maniera abbastanza dura chi la dice, no? Il comportamento è una caffoneria, è una maleducazione. Vedendo giocatori che ricevono un calcio su una caviglia e sembra che un treno li abbia schiacciati, o che fanno falli brutti, o che fanno furberie o cosa, mi sembra che punire con un turno una bestemmia scappata in un momento di nervosismo sia una cosa leggermente eccessiva. Questo è un punto di vista. Le spiego, sono del Torino, io andavo al Filadelfia quando c'era ancora Pulici, Graziani, quella gente lì. Non ho mai più frequentato un campo da calcio dopo quell'epoca. Quindi non penso che la carenza di avere bianchi in squadra domenica possa cambiare molto la situazione. No, ma è una questione di principio quella che lei sta facendo, che io condivido totalmente dal giorno in cui questa ridicola norma è stata varata. Ho sempre detto ridicola fin dal primo giorno, insisto ancora oggi, perché è la classica ha presente la trave, no? il trave che sia, e le pagliuzze. Questa è la classica pagliuzza. In Italia siamo specializzati nell'ignorare le travi e nel dedicarci ferocemente alle pagliuzze, e questa è una di quelle. Dopodiché io credo che esista anche, non il diritto, perché questo no, ma insomma esista anche l'eventualità da non colpevolizzare oltre misura, comunque da non sanzionare a quella maniera, che un giocatore che prende, ripeto, uno o più colpi proditori, perché di questo si trattava ieri sera, prende uno o più colpi proditori, cioè se fa fallo di reazione è chiaro che si mette dalla parte del torto e lo cacciano, se deve andare a bordo campo e farsi medicare e gli scappa, come dire, qualche esclamazione contrariata, perché poi le gomitate fanno male, soprattutto dalle parti degli occhi. Beh, insomma, io credo che questa sanzione sia ridicola. Ho letto stamattina che prima ancora del giudice sportivo c'era stato un intervento del presidente del Brescia Corioni per chiedere la squalifica di questo giocatore. Io dico che il calcio di casa nostra non è malato, è in uno stadio molto ma molto terminale, e da tanti ma tanti tanti punti di vista. Riagganciandosi al precedente intervento di un ascoltatore, Michele Formoso da Taranto scrive: ma come si fa a essere estimatori contemporaneamente di Berzot e di Lippi? Beh, questa, Michele, è una magnifica domanda, in effetti, che mi permetto di condividere. Vediamo che cosa Nicola Filippone ha scovato nella storia dei campionati del mondo a proposito del 10 di giugno. Sembra ieri. 10 giugno 1934. L'Italia di Pozzo trionfa nel mondiale di casa sconfiggendo in finale la Cecoslovacchia. È una vittoria sofferta perché gli azzurri vanno in svantaggio al 71esimo, ma riescono a non perdere la testa, portandosi sull'1-1 con Mumo Orsi 10 minuti dopo. si va ai supplementari, che l'Italia affronta col piglio giusto. Al 95esimo l'attaccante del Bologna, Angelo Schiavio, che era rimasto in campo infortunato, trova una conclusione imparabile per il portiere Planička. Gli azzurri difendono con disinvoltura il vantaggio, conquistando così la seconda edizione della Coppa del Mondo, che gli viene consegnata da Jules Rimet, presidente della FIFA e inventore della competizione, a cui in seguito il trofeo sarà dedicato. Premiati da Jules Rimet. Allora, come stiamo facendo proprio in questi giorni, perché siamo in epoca di mondiale, quindi cerchiamo di valorizzare questi episodi che Nicola Filippone va scandagliando giorno per giorno, sentiamo che cosa Flavio Suari ha trovato a proposito di questo 10 giugno 34. La formazione di Pozzo era questa: Combi, Monzegno, Alemandi, Ferrari, Squarto, Monti, Bertolini, Guaita, Meazza, Schiavio, Ferrari, Orsi. Tempi regolamentari senza gol. Nei supplementari la rete di Puck gelò tutti. Poi Orsi segnò il gol del pareggio. Il trionfo azzurro fu siglato da Schiavio. 2-1 per l'Italia, campione del mondo. Discreto errore, no, di contenuto, visto che i primi due gol non avvennero affatto nei supplementari, fu quello di Schiavio che arrivò nei supplementari. Comunque, in ogni caso, un cinegiornale, avete sentito la voce d'epoca, la musichetta, un momento di suggestione. A proposito di storia del calcio, io ho da giorni qua uno stupendo volume che si chiama Il Secolo Azzurro 1910-2010, che è stato editato da Minerva Edizioni e curato da Carlo Chiesa, con delle statistiche di Lamberto Bertozzi e con tantissime autografie inedite. Non ve ne parlo nel dettaglio, perché per scaramanzia lo tengo da parte per rifarci la bocca, nel senso che se dovessero andare particolarmente male le sorti dell'Italia in questo mondiale, avremo sempre questo rifugio, no, della memoria, sfogliando adeguatamente questo volume. Per il momento ve l'ho segnalato perché è un lavoro davvero non solo cospicuo, ma di qualità. Daniele ha chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno, mi riallacciavo anch'io alla squalifica di Bianchi, ma lei prima è stato più che esaustivo. Aggiungo solo che Manfredi 10 minuti dopo la partita reclamava già a gran voce questa squalifica, denota tutta la sportività dell'ambiente, diciamo. Probabilmente sarebbe potuto succedere anche a parti inverse. Sì, no? Ma io, guardi, stia pur certo che sarebbe accaduto anche a parti inverse, perché ormai succede a qualunque parte inversa nel nostro miserabile calcio di cortile. Però è successo invece così, ed era giusto darne conto così. Ripeto, io trovo molto, non lo so, per rischiano di scappare aggettivi che chiamano in casa uno stato estero che sta proprio nel centro dell'Italia, no? E quindi, dato che non vorrei creare incidenti diplomatici, cerco di usare eufemismi, ma mi dà un particolare fastidio che un quarto uomo, no, non riesca ad aiutare l'arbitro nel cogliere gomitate, ma sia invece implacabile nell'assisterlo al momento di refertare queste atrocità che un giocatore, ripeto, dolorante, si lascia colpevolmente peraltro scappare. Daniele, grazie. Andiamo in provincia di Verona da Ercole. Buongiorno. Ercole, abbassi la radio, meglio se la spegne. Sì, mi sente? Certo, adesso sì, grazie. Volevo fare una domanda. L'altra volta ho visto la partita, l'amichevole del Campionato Nazionale con la Svizzera, mi sembra, no? In cui in porta c'era Marchetti, portiere giovane, riserva di Buffon. Sì. Volevo dire, ma siccome aveva un effetto mediatico molto, molto importante, mi sembra, perché le telecamere si soffermavano molto, molto, diciamo, intensamente su di lui, se poteva essere, diciamo, utile anche a altri giocatori. È tipo effetto mediatico, un problema delle belle facce da presentare in TV, diciamo, anche ma inizialmente così, in modo da fare tipo dei core per trainare, diciamo, l'ambiente della nazionale, tipo Boriello, anche così. E poi devo fare un'altra domanda: i famosi oriundi promesse che c'erano in Italia, che fine hanno fatto nel giro nazionale? Gli oriundi, quelli che avevano doppio passaporto, diciamo, che potevano giocare anche in nazionale azzurro. Ce n'è uno, c'è Camoranesi, mi sembra che basti. Chi poteva... No, c'era anche a Mauri, mi sembra. Ma meno cioè, ci mancava Mauri, credo, no? In questa... no? Non abbiamo abbastanza combattenti e reduci in questa squadra. Io credo che ci fossero dei giocatori di scuola italiana che semmai meritavano di essere lì, ma insomma non... è acqua passata, tanto vale macinare ormai con quello che c'è. Sto vedendo dal Tribunale Nazionale Antidoping che l'ex giocatore del Brescia Francesco Flacchi è stato squalificato per 12 anni, nel senso che è arrivata la sanzione definitiva, no? Lui era recidivo, era stato beccato il 19 dicembre dopo la partita col Modena, e quindi si è applicata in questo caso la recidività, certo una squalifica senza precedenti nel nostro calcio. Poi Flacchi aveva insomma, una sua discreta età e sarebbero bastati meno. In ogni caso sono 12 anni di squalifica per doping per Francesco Flacchi, ex giocatore di Sampdoria e poi Fiorentina all'inizio e poi Brescia. Riusciamo a chiudere ancora con un ascoltatore che è Alessandro dalla provincia d'Ancona. Buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno. Volevo farle restare in argomento due temi. Il primo è che cosa ne pensava del Motta dell'Inter come eventualmente oriundo, tra virgolette, visto che aveva il doppio passaporto. E poi, Ambrosini, comunque... lei è di Ancona, avrei portato Ambrosini. Ecco, e volevo proprio allargare la domanda, poi visto che è un gioco e siamo tutti commissari tecnici, chi avrebbe portato, che non c'è oggi in nazionale? Grazie. Balotelli, di tutti gli altri sinceramente Balotelli, poi si può discutere, per carità, Balzaretti, Ambrosini, Perrotta, il Perrotta dell'ultimo periodo certamente... qualcos'altro, qualcuno l'avrei lasciato a casa senza sforzo e senza difficoltà. L'unico di tutti questi che avrebbe potuto cambiare, non il mondiale, perché neanche Mandrake cambia un mondiale da solo, oppure solo in Maradona dell'86, ma che avrebbe potuto cambiare una partita, un andamento storto, che secondo me si chiama Mario Balotelli. Siamo arrivati alla conclusione anche oggi, direi, quindi grazie a Franco Piattanida in redazione, a Fabio Cantadori in regia, appuntamento regolarmente a domani.